Es mir galoppi rabo. Ilan, bolscevico, cambia disco. Milan, non ho capito se ti chiami Alino o Alenin. Comunista bolscevico, Milan Setung, Setung, Setung. Setung. Piegati al sistema che non siete altro. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Sono le 9:09, tra qualche secondo. Cari amici, siamo qui tutti riuniti. Vi annuncio subito che ci è caduto malato il nostro Leonardo Lentopede Manera. Mi ha mandato dei messaggi, dei corona messaggi. Ma quando lavori? Vabbè, dai, adesso dice che ha la febbre. Fulmastro. È afono. Parassitismo. Adesso questo poi ci querela, guardate che lui lento lento, zitto zitto, quatto quatto, cacchio cacchio, mi sa che poi un giorno ci querela per tutte queste questioni. Allora comunque bellissima, tra l'altro, il particolare mi ha detto sono anche afono. Manera Zetung, che è come dire non chiamatemi neppure, insomma sono proprio vestaglione, pigiamone, e comunque anch'io non sto benissimo, diciamo che tranquilli, non si tratta del coronavirus, anche se di questo tema parleremo, ma di banale raffreddore, influenze, virus che circolano. E Ale, siamo qui però, ecco questa è la differenza, noi siamo qui però. Dai Milan, che ancora è Venere. Oggi è venerdì, sì, saluto tutta la redazione, da Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti a Lorenzo Nespoli e il nostro Alpino in regia. Le 9:10, dove mando la corona di fiori per Manera? Dai, adesso fate i bravi. Ma no, intendevo il coronavirus. Parleremo in realtà ancora di questa vicenda. Oggi ci collegheremo con la Nigeria per parlare di questo tema e capirete perché, per l'ospite che si trova in Nigeria, ma parleremo di tante altre tematiche qui fino alle 11, eh? Vai Alpino! Enthusiasm about the future. 'Cause I'm a sad, sad post-teen, could have been a love machine, no drink. Ho letto questa notiziola, ma piccola, giusto per tutta la vicenda, il melodramma di Maio, che, ma è vero che hanno preso la cravatta di Di Maio e l'hanno messa in una teca da conservare alla Camera, il gruppo del Movimento 5 Stelle? Ma perché? C'è i cimeli, come la statua di Lenin quando è morta, che vai ancora lì al mausoleo di Lenin sulla Piazza Rossa per vedere la cravatta di Di Maio. Ma che è sta roba? La cravatta per molti in questi anni ha contraddistinto il mio operato da capo politico. Sì. Per me ha sempre rappresentato un modo per onorare la serietà delle istituzioni della Repubblica e il contegno che deve avere un uomo dello Stato. E questo è giusto. E quindi nel ringraziarvi, nell'abbracciarvi, me la tolgo qui davanti a tutti. La togli, il gesto della cravatta conservata ora in una teca nel gruppo. Ma ragazzi, va bene, sì, ma per carità, la politica, ma chi se ne frega, si nutre, effettivamente la politica si nutre anche di gesti simbolici. Vabbè, però la cravatta è Di Maio, non lo so, dove bisogna, come la statua fantoziana della mamma del principale, bisogna baciarla quando si arriva lì inchinandosi, non lo so, non chiedetemi questo, dai. Allora, che cosa mi ha colpito oggi dai giornali? Alcune notizie, salto qua e là. La prima è una vicenda che c'è a Belluno. Magari dovremmo anche occuparcene. Ieri l'ho vista circolare come notizia, oggi il Fatto Quotidiano dedica mezza pagina a questo tema, secondo me molto interessante, che sono i cosiddetti furbetti dei vaccini. Sapete che con la legge Lorenzin tutti si devono mettere come dire, impari con la questione dei figli a scuola, i vaccini. Solo che a Belluno pare c'è un'inchiesta della procura che dura da un mese, ora ci sono i primi avvisi di garanzia, pare che molti genitori abbiano fatto i furbetti con delle autocertificazioni false, tanto chi va a controllare, e molti presidi, pur sapendolo, hanno chiuso gli occhi e hanno detto: ma sì, va bene, tanto chi va a controllare. Il procuratore Paolo Luca della procura di Belluno è andato a controllare, e adesso il vaccino, ha detto, non è un affare privato, cioè non è solo la presunta menzogna che riguarda genitori, figli e semmai dirigenti scolastici, perché, come racconta Giuseppe Pietrobelli sul Fatto Quotidiano, le vaccinazioni dei bambini non riguardano solo le singole persone, l'abbiamo spiegato anche ai duri di Comprendonio, non sono dunque solo un affare privato, interessano la salute pubblica, la salute di tutti. Dunque, ecco perché il procuratore della Repubblica di Belluno ha dato il via a un'inchiesta che sta letteralmente scuotendo il mondo scolastico a Belluno, con un centinaio di indagati per aver fatto i furbi con le autocertificazioni false, e invece i dirigenti scolastici per omissione di controllo. Signori, c'è l'altra polemica, non lo so se la volete fare, ma vi dico i cachet. Secondo Dago Spia, i cachet di Sanremo è l'altra polemica che ogni anno, quando c'è Sanremo, si avvicina Sanremo, eccola lì, i cachet. Allora, secondo Dago Spia, la fidanzata di Ronaldo ha chiesto, secondo voi quanto, dai, vai, guardo Miriam Lucchetti, tanto non lo sa, quanto ha chiesto per andare al Festival di Sanremo la fidanzata di Ronaldo? Fai segno con le, sfida Lucchetti, fai un segno con le, dunque, 10 vorrebbe dire 10.000, 100.000, 100. Alza trinchetto, come si faceva a scuola, alza trinchetto, 140.000 euro, ma ha fatto meglio di lei, e devo dire, meno male, perché non ci sarà confronto, no, tra i due, Benigni, pare sia arrivata la richiesta di Benigni per andare a Sanremo. Miriam Lucchetti dice 2 come 200.000 euro, alza trinchetto, 300.000 euro, questo secondo quello che dice il sito della Gospia, 300.000 euro. Ma l'intervista sulla quale voglio concentrarmi è che mi ha più colpito, l'intervista che mi sta a cuore, l'articolo, e riguarda Casale Monferrato. Me ne sono occupato in passato, tanti anni fa, come tanti giornalisti, della vicenda delle vittime della Eternit, stabilimento di Casale Monferrato, ma non solo, anche in altre parti d'Italia. Perché lo cito oggi? Perché oggi c'è l'ennesimo, devo dire, giudizio, non è la prima volta, atteso nei confronti dell'allora magnate svizzero che controllava tutta la questione degli eteri, vado a dire Stephen Schmidaini. E la stampa, giustamente anche per vicinanza territoriale con Silvana Mossano, si occupa con una pagina di questa vicenda. Oggi praticamente bisogna decidere se mandare con rinvio a giudizio appunto l'imprenditore Schmidaini per l'omicidio volontario di 392 casalesi morti a causa dell'amianto. Per carità, una vicenda drammatica, non sappiamo come andrà a finire, i magistrati facciano il loro lavoro. Quello che mi ha colpito è che questo Stefan Schmidaini ha rilasciato un'intervista a un giornale svizzero nella quale intervista usa delle parole terribili nei confronti dell'Italia. Titolo della stampa: odio gli italiani. Così, il magnate svizzero Schmidaini, odio gli italiani. Quando penso all'Italia provo solo compassione per tutte le persone buone e oneste che sono costrette a vivere in questo stato fallito, ha detto Stephen Schmidaini. E poi ha raccontato che tutta questa vicenda giudiziaria, visto che sono una persona sensibile, l'ha costretto a occuparsi della sua igiene mentale per non lasciarmi abbattere da tutti questi incredibili attacchi. Odio gli italiani, ho provato odio per l'Italia. Va bene, Stefan Schmidaini. Oggi vediamo vediamo un po' come va. Allora, il primo ospite, c'è una notizia che da giorni sul Messaggero rimbalza e per la verità ritorna, e che riguarda la annosa questione dell'IMU della Chiesa, cioè tutte le proprietà immobiliari della Chiesa che hanno anche una, come dire, una funzione commerciale o semicommerciale, per la quale quindi bisognerebbe pagare l'IMU, e secondo molti invece questo non viene fatto. Devo dire che saluto il deputato eletto con più Europa Radicali, Riccardo Maggi. Buongiorno. Buongiorno, Maggi, buongiorno a te agli ascoltatori. Perché Riccardo Maggi, devo dire che è stato uno dei primi forse a occuparsi di questa vicenda in maniera più approfondita. Anzi, Riccardo Maggi avevi fatto anche tutto un elenco di uno studio, un elenco di edifici che secondo te andrebbero sottoposti a queste regole. Ma sì, ma io ero partito da un sito pubblico che a Roma è un sito che Turismo Roma, un sito di promozione turistica, vedendo quali fossero le strutture che erano promosse nell'elenco delle strutture ricettive. Sì. E c'erano circa 300 strutture che fanno accoglienza, diciamo, con modalità commerciale, nel senso che si fanno pagare, quindi e quelle quantomeno di commerciale hanno qualcosa di sicuro. Esattamente, no? E sono, attenzione, sono strutture, in realtà poi quando si dice immobili della Chiesa non è esattamente così, sono di enti religiosi. Sì. Facevano capo queste 300 strutture a circa 250 diverse partite IVA o codici fiscali. Questo è uno dei problemi, esatto. Cioè il fatto, la parcellizzazione delle proprietà, cioè non è il Vaticano ma sono vari enti religiosi che magari poi dopo non dipendono direttamente dal Vaticano, allora confraternite, enti religiosi, ordini vari, eccetera. Ed emergeva da questa richiesta che io feci qualche anno fa al Comune che praticamente il 40% di queste di questi soggetti non aveva mai pagato l'IMU nei 5 anni precedenti, un altro 40% all'incirca lo pagava regolarmente, il restante 20% qualche anno sì, qualche anno no. E c'era un enorme, c'è tuttora mi pare di capire, fatica dell'amministrazione comunale ad inseguire questi soggetti che sistematicamente fanno contenzioso, e quindi poi ci sono i vari gradi di giudizio. E quindi c'è oggettivamente una fatica a recuperare in alcuni casi quello che non è stato mai versato, in altri quello che viene versato in maniera irregolare. Questo a causa della legge italiana, però. Sì, ma Maggi, non solo fatica, attenzione, perché la notizia è rimbalzata ed è tornata sul Messaggero? Perché c'è adesso un procuratore, che è il procuratore Andrea Lupi, che ha aperto a Roma un fascicolo ipotizzando un macroscopico danno erariale per le casse del Comune di Roma. Cioè, se non riuscite a recuperare questi soldi che sono dovuti, adesso c'è anche la beffa del rischiare di venire indagati da parte della Procura. Ma questo è giustissimo, però a mio avviso sarebbe ancora più urgente una modifica della norma, perché questo vale per il passato. Perché attualmente la legge che è stata cambiata, mi ricordo, con il governo Berlusconi c'era un'esenzione molto ampia, che è quella su cui intervenne addirittura la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dicendo che questi erano aiuti di Stato appunto illegittimi che venivano dati riconosciuti a queste attività commerciali. Poi ci fu una modifica con Bersani che disse che l'esenzione andava applicata agli immobili in cui c'è un'attività non esclusivamente commerciale. E quindi diciamo in un stesso immobile in cui c'è una parte riservata ad un'attività di culto religiosa e un'altra parte commerciale, esatto, si riusciva ad avere l'esenzione. Poi con Monti si modificò, tentando di risolvere la cosa, il regolamento IMU, dicendo l'esenzione a quelle attività non commerciali, dove la definizione non commerciale era se tu fai pagare diciamo meno della metà del prezzo medio della zona. Accidenti. Ora, e con questo capite qual è il problema. Con questa scappatoia potrebbe essere che allora Maggi hanno tutti ragione queste strutture e ce la fanno a non pagare. Questa è la difficoltà del comune, perché queste sono strutture, ad esempio quelle che ho seguito io, strutture ricettive turistiche, che vendono ad esempio su Booking. e sulle piattaforme digitali. Ora andate voi a capire qual è il prezzo medio della zona. Esatto, a che prezzo? Esatto. E quindi forse servirebbe finalmente una riforma, una modifica normativa. L'ho proposta nel recente decreto fiscale, nella legge di bilancio, è stata sistematicamente bocciata. Devo dire anche da quelle forze che poi invece sostengono, e questa è una cosa che vada risolta, che dica chiaramente che l'attività commerciale va tassata, quindi se ti fai cioè pagare anche, punto, anche se è parziale, anche se è poca, esatto, anche se è una parte minoritaria o percentuale di quell'edificio, esatto, e anche se è a 10 euro a notte, per dire, per dare una cifra. Sì, quello anche sarebbe, nella sarebbe maggior parte dei casi non è a 10 euro a notte. No, è chiaro, no, ma è che quello sarebbe il modo per, come dire, tagliare la testa al toro, cioè fatturi tot, anche poco, paghi l'IMU in base percentualmente a quello che fatturi, ecco. Quant'è, secondo stime a questo punto, perché è tutto molto complicato, quanti soldi tra virgolette perdiamo, cioè non vengono incassati, così la stima allora, più grande e la stima minore? È difficilissimo dirlo perché una parte consistente di queste strutture e quindi di queste attività e di questi immobili in realtà non sono neanche presenti nel database del fisco comunale. Comunque ci sono delle stime che a un certo punto fece l'ANCI di 500 milioni l'anno. Ma questo in tutta Italia o solo a Roma? Questo diciamo a Roma è la parte più consistente. Poi ci sono altre stime che parlavano in 5 anni di 5 miliardi di euro da dover recuperare, quindi è veramente difficile perché nessuno è abbastanza inafferrabile la questione, sì. E ovviamente poi questa cosa si riverbera anche su altri tipi di imposta, ad esempio la stessa cosa a Roma avevo verificato avviene sulla TASI o sulla tariffa sui rifiuti. Cioè lo stesso tipo di elusione, diciamo così, avviene anche su queste altre imposte locali. Sì. C'è da dire che oltre al danno la beffa, cioè appunto se poi la questione è che non solo non si recuperano i soldi, ma se poi arriva anche una inchiesta della procura a condannare per danno erariale qualcuno, ci sono addirittura delle spese da pagare su questo. Comprensibilmente dico il Vaticano, ma per dire anche gli enti religiosi di cui si è fatto cenno non ci vogliono sentire, diciamo, da questo orecchio. Allora è chiaro che, ripeto, siamo di fronte tra l'altro a una gestione di questi immobili che è molto parcellizzata, ripeto, sono centinaia di diversi soggetti con diverse personalità giuridiche. Gli immobili del Vaticano veri e propri sono quelli, diciamo, che godono addirittura di extraterritorialità e quindi quelli proprio dello Stato Città del Vaticano non rientrano in questa categoria. Gli ordini religiosi, la maggior parte di questi, dai dati che ho visto io, vanno in contenzioso. Sì, e quindi molti di questi hanno centinaia di migliaia, alcuni milioni di euro, diciamo, di contestazioni che restano appesi, alcune poi vanno in prescrizione. Però ecco, il lavoro non è vero, come ho letto sui giornali in questi giorni, che non c'è un modo per fare questo lavoro. Mm-hmm. Diciamo che è un lavoro reso difficile ai comuni, perché i comuni per l'impostazione normativa che dicevo prima devono inseguire caso per caso ed andare davanti alla commissione tributaria a dimostrare che quell'attività è commerciale. Ed è estremamente difficile, quindi servirebbe l'intervento del legislatore o del governo. Sì. Non come quelli che ci sono stati, dici tu. Comunque ti ringraziamo, grazie Riccardo Maggi, grazie, ovviamente grazie deputato di Più Europa Radicali. Questa vicenda è un po' a puntate in questi giorni, è stata pubblicata dal Messaggero, leggete, insomma seguite se vi appassiona questa vicenda, perché il Messaggero, anche comprensibilmente essendo il quotidiano di Roma, ha seguito con grande vicinanza tutta questa storia. Signori, signori, signori, prima di andare in pubblicità, vabbè, ma voi, secondo voi, adesso poi mi dite, ma tu attacchi il reddito di cittadinanza, ma no, non è che io attacco il reddito di cittadinanza, l'ho spiegato 580 milioni di volte che sono a favore, se volete, di qualsiasi misura che può aiutare delle persone in difficoltà, in sofferenza, in povertà, ma ma c'è, ci sono due aspetti. Il primo, che ci hanno detto, ci hanno spacciato l'idea che il reddito era una misura temporanea per riportare le persone al lavoro. Prima notizia che trovo oggi sul Quotidiano Nazionale: dove sei finito, Quotidiano Nazionale? Dove ti nascondi, Quotidiano Nazionale? Perché ce l'hai con me, Quotidiano Nazionale? Vabbè, comunque la notizia la ricordo così: solo il 3% delle persone hanno ora, sono state reinserite nel mercato del lavoro. Eccolo qua, vedi che ti ho ritrovato, Quotidiano Nazionale. Oltre il sussidio, nessuna certezza, un lavoro solo per il 3% di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. Fino adesso, per carità, bisogna partire, hanno trovato lavoro fino ad oggi non più di 29.000 persone tra gli 815.000 potenziali lavoratori percettori del reddito di cittadinanza. Quindi prima hanno spacciato questa notizia e al momento i dati sono un po' sconfortanti. E poi soprattutto, come ho detto mille volte, in Italia fatta la legge, trovato l'inganno, e infatti. Signori, trovate su tutti i giornali la vicenda dei 237 pizzicati nella Locride con il reddito di cittadinanza. Uno di loro aveva anche la Ferrari, la macchina è la Ferrari. Maledetti! 237 ne hanno pizzicati così, Alcuni indranghetisti. E intanto reddito di cittadinanza, così, quasi per sfidare la sorte. Io poi non capisco, sia il Quotidiano Nazionale, sia il Corriere della Sera, il titolo I furbetti. La finiamo con questo: furbetti, truffatori, disgraziati, ladri, maledetti. Maledetti! Scrivete quello che volete, basta con sto furbetti. Furbetto è mio figlio che a 2 anni mi faceva su per prendere un lecca-lecca poco prima di mangiare. Quello è un furbetto, basta! Basta, anche da questo linguaggio deve passare un po' di cambiamento. Furbetti, è furbetto, lui ce l'ha fatta. Maiali, schifosi. Adesso, sì, non lo so, adesso mettete quello che volete. Certo che capisco che fa un po' più specie leggere il titolo I porci del reddito di cittadinanza, no? Gli schifosi del reddito di cittadinanza. Però farebbe più senso, no? A Modena, signori, non è finita. Mi sono perso tutti i giornali oggi. Comunque, eccolo qua, ne ho trovato un altro. A Modena, racconta il Quotidiano Libero, eccolo qua, pizzicato uno che aveva reddito di cittadinanza, ma aveva anche intestate 78 automobili. Maledetti! Vabbè. Che dobbiamo fare? Questo qua di Locri guadagnava 55.000 euro l'anno. Guarda qua, 55.000 euro l'anno più il reddito di cittadinanza. Così, la ciliegina sulla torta. Ragazzi, dai, andiamo un attimo in pubblicità. Giustamente ci dicono che sulle polemiche dei cachet di Sanremo l'unica cosa che conta è il cachet di Elisabetta Fusconi. Quanto è il cachet di Elisabetta Fusconi? Credo a ogni incursione qui negli studi di Radio 24 prenda sui 600-650 euro. 13.000 euro netti al mese. Più o meno, quindi la vedo là girarsi, cioè è pericolosa questa cosa. Ha sentito questa cosa o no? Il cachet di Elisabetta Fusconi, non lo so. Dovremo fare dei controlli al personale. Intanto andiamo un attimo in pubblicità, poi parleremo di questa vicenda del virus, del coronavirus, e avremo un collegamento con la Nigeria, perché ci collegheremo con Tommaso Urbani. Chi è? È il figlio di un uomo che troppo spesso è dimenticato in Italia, un medico. Medico italiano Carlo Urbani, che nel 1993 di fatto scoprì il virus della SARS e purtroppo lui è morto per questo virus. E il figlio, c'è una fondazione, il figlio è capo missione InterSOS in Nigeria e porta avanti questa battaglia e ci ricorderà anche un po' la figura del medico Carlo Urbani. Tra poco. 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Milan. Se realmente danno 200, 300, anche solo 100.000 euro a Benigni per partecipare a Sanremo, speriamo di fallire in fretta come paese, perché vuol dire che siamo un paese veramente di sciagurati, di scellerati. Perché una cifra del genere l'ho pagata io in 20 anni di mutuo per l'appartamentino che ho. Ragazzi, se questo qua li prendi in una sera, in due ore per stare lì a Sanremo, siamo veramente un paese di deficienti. Queste sono le cifre. C'è chi si toglie la toga e c'è chi si toglie la cravatta. Queste sono le cifre. A proposito, appunto, il cachet di Elisabetta Fusconi mi chiedevano, sono 600-650 euro più o meno. Franchi, sai che io pretendo di essere pagata in franchi svizzeri. Sai, che mi appoggio una valuta forte. Bene, peraltro, sicura? Ma certo, sicura è da sempre, un bene rifugio. Vabbè, poi ovviamente c'è da aggiungere una serie di benefit che pretendo: massaggi, cioè? Spa, massaggi, vacanze, massaggi, passaggi, autisti. Se vogliamo li elenco, non so se la gente possa essere interessata. Franchi, questo è Franchi, certo. Commesso un errore, scusate. Poi io non capisco tutta questa questione della privacy legata ai cachet. Io lo dico volentieri, il mio cachet qua dentro. 600 franchi, cioè, quindi franchi, oggi puliti, con questa incursione, netti. 3 minuti, altro che Benigni, 2 ore, 300.000 euro. In proporzione, tu, 30 secondi, 600-650 franchi. Però quanto puliti. Ti rendo in franchi sempre? Insomma, vorrei monetizzarla un giorno questa cosa. Va a lavorare. Va. Buona giornata. Va bene, ringraziamo Elisabetta Fusconi. Allora, sono le 9:37 minuti. Come avete sentito, oggi Leonardo Manera, la febbre non c'è. Ma noi, ecco, siamo in grado di collegarci con la Nigeria, dove io voglio salutare con estremo piacere Tommaso Urbani. Buongiorno Urbani. Buongiorno. C'è ovviamente un piccolo ritardo, siamo collegati anche su WhatsApp. Tommaso Urbani è il figlio del medico Carlo Urbani, che nel 2003 morì nel tentativo di scoprire questo virus, che era un virus allora strano, nuovo, era poi la SARS. Eravate in Vietnam voi? Sì, esatto, in quel periodo eravamo in Vietnam, mio padre era funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e si occupava delle malattie parassitarie per tutto il sud-est asiatico. Ci eravamo trasferiti con tutta la famiglia nel 2000 e poi sì, purtroppo nel 2003 c'è stata questa epidemia che è iniziata in Cina ed è poi arrivata in Vietnam, dove mio padre appunto non lavorava in ospedale, ma comunque l'ospedale francese, sapendo che c'era un infettivologo ad Hanoi, lo chiamò per controllare, ecco, questa strana febbre, questa strana polmonite che questo paziente aveva, e quindi lui ovviamente andò. Certo, lei si occupa di altro, adesso come ho detto prima è il capo missione di InterSOS, ONG in Nigeria, però chiaramente quella vicenda ha segnato inevitabilmente le vostre vite, lei aveva 17 anni all'epoca, vede qualche analogia in qualche modo in quello che sta succedendo con il coronavirus con la vicenda di qualche anno fa? Innanzitutto una piccola precisazione, sono coordinatore logistico di InterSOS, sì. Non capo missione, giusto una piccola precisazione. Allora ovviamente sì, le analogie sono molte, non appena ho letto di questo nuovo virus, ovviamente la prima cosa che ho pensato è stata a 16 anni fa. E le analogie sono molte, non mi spingo a parlare della parte tecnica perché non sono in grado, però quello che ricordo è il modo in cui mio padre ne parlava e il modo in cui poi era stata affrontata l'epidemia. Sicuramente quanto fatto da mio padre e da tutte le persone che avevano lavorato per cercare di bloccare la SARS nel 2003 è stato molto utile per poter poi negli anni rispondere in maniera più efficace e veloce ad altri virus che sono emersi. Mm-hmm. E quindi già il fatto che a al momento comunque se ne parli e stanno cercando di contenere il virus, è già un esempio di come la vicenda del 2003 abbia comunque dato un grosso aiuto. Ecco, questo è fondamentale, appunto, la reazione delle persone, cioè la reazione anche delle istituzioni. All'epoca, lei ricorda, ci furono delle reazioni o ci furono dei tentativi almeno iniziali di insabbiare la vicenda, cosa che in questo caso mi sembra non ci sia stata, cioè in Cina c'è una collaborazione, o no? Sì, no, è molto importante che appunto ci sia stata subito questa comunicazione globale tra i vari istituti, i vari governi, perché all'epoca avevo 17 anni, ripeto, quello che ricordo è quello che mio padre mi raccontava, però sì, c'era molta difficoltà nel riuscire a dare l'allarme, perché comunque i vari governi temevano ripercussioni, temevano di lanciare il panico, ecco. Questa volta per fortuna tutti sono mossi per tempo, e quindi speriamo che si riesca a contenere l'epidemia il più efficacemente possibile. Quello sì, è certo che fa impressione vedere le immagini, per esempio, di questa città di Wuhan in Cina, dove sono tutti in quarantena, nessuno può uscire, sono sospesi, anche sono chiusi i cinema, non si può prendere un aereo, non si può prendere un treno, ci sono controlli, posti di blocco anche per chi cerca di andare via con la macchina. Sembra, qualcuno parla anche di, come dire, diritti costituzionali lesi, perché sembra davvero di vivere in una città in quarantena. Ci vuole, in conclusione, Tommaso Urbani, raccontare qual è il forte messaggio ancora dell'opera di suo padre? C'è una fondazione, per esempio, che avete creato. Sì, esatto. Dopo la sua morte, la famiglia, insieme ad amici e colleghi, hanno deciso di fondare l'Associazione Italiana Carlo Urbani, non solo per ricordare la figura di mio padre, ma anche per poter continuare in piccola parte il suo lavoro. L'AICU nel corso degli anni ha finanziato e ha collaborato con molte altre organizzazioni, principalmente con progetti sanitari, uno su tutti, un grosso lavoro con l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Vietnam nel 2006 per la lotta alla schistosomiasi. Ci siamo concentrati soprattutto negli ultimi anni anche sulla formazione, che è fondamentale, formazione sia di personale italiano ma anche di personale straniero, con vari progetti che continuiamo a promuovere, con il premio Carlo Urbani che è arrivato quest'anno alla quinta edizione, si tratta di borse di studio appunto a personale sanitario per poter poi andare a svolgere le attività in determinati posti. Certo. Collaboriamo anche con le scuole proprio per poter raccontare la storia di mio padre, quello che ha fatto mio padre ai bambini e ai ragazzi, sì, per dare uno stimolo in più e far capire non soltanto l'importanza del lavoro che ha fatto in ambito sanitario, ma anche cosa lo ha spinto con la sua passione, con la sua volontà di aiutare il prossimo a spingersi così là. Certo. Io la ringrazio, ripeto, ringrazio Tommaso Urbani dalla Nigeria, dove lavora per Intersos, il figlio di Carlo Urbani, il medico italiano morto nel 2003, era stato chiamato appunto a Bangkok da Hanoi, dove si trovava con la famiglia, per affrontare, visto che era responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità della zona, affrontare un virus strano che era comparso. Poi si sarebbe scoperto essere la SARS, appunto, e però lui lo capì e servì, come dire, devo dire, il suo sacrificio, ecco, bisogna usare questa parola, anche a mettere in atto tutte le prime reazioni per cercare poi di contrastare, isolare, limitare i danni da questo virus. Grazie a Tommaso Urbani, e mi sembra giusto ricordare il padre Carlo, che in questo momento di grave incertezza, ecco, con quello che sta succedendo in Cina, ma non solo, perché ormai la vicenda riguarda un po' tutti e speriamo non diventi globale, ha riportato la figura e ci ha riportato in mente la figura del medico Carlo Urbani. Allora, noi dobbiamo andare alle informazioni sul traffico, come detto, ma non ironizziamo, insomma, Leonardo Manera ha la febbre, come anch'io sono un po' febbricitante, ma sono vicende diverse, per fortuna, non ironizziamo su questo. come invece oh, che dobbiamo dire? Gabriella ci scrive: la Fusconi non ha prezzo. C'è chi ci dice: la porto io la Fusconi da Lugano a Milano. No, ma non ha capito che è l'ascoltatore. Lei elogia la Svizzera, la Fusconi, ma vive a Milano. Sono di quelli che bella, bella, bella la Svizzera, però con il sederino a Milano, nella bambagia milanese, bella la Svizzera, bella, vai a vivere a Lugano, infatti. Saluto con grande affetto e con grande amore a tutti gli amici di Lugano. Che bella voce Elisabetta Fusconi, meglio della tua, caro Milan, buon lavoro, ciao Giulio da Ponza. Va bene, Giulio, di fronte alle verità io mi ritraggo e do la linea al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. E ovviamente, chi è questo? E ovviamente c'è chi si offre per i massaggi, Giuliano da Verona, per i massaggi Elisabetta Fusconi. E l'ha chiamati lei in onda, quindi. Vabbè, vai Alpino. Ma il buon Di Maio si ricorda che è ancora ministro degli esteri? Quindi cos'è? Incontrerà Trump, Macron, la Merkel senza cravatta? Ma dai! E no, ma quella cravatta, quella che si è tolto è nella teca, mica ne avrà una, no? È nella teca del gruppo Movimento 5 Stelle, vabbè. C'è Stefano dalla provincia di Roma, eccoci Stefano. Buongiorno Milan, buongiorno anche ai radioascoltatori. Allora, no, ecco, rapidamente sul discorso che lei stava facendo, no, su queste cose che sono uscite fuori. Quali? Le vaccinazioni. Ah, le sì, vaccinazioni. A Belluno, nella provincia di Belluno, sì. Esatto, cioè era da prevedere una problematica del genere. Sì, ricordiamo, autocertificazioni e presidi che evidentemente hanno chiuso un occhio, c'è una inchiesta con 100 indagati. Io personalmente credo questo, innanzitutto che non dovrebbe essere, io sono un medico, quindi non dovrebbe essere un preside a controllare se ci sono effettivamente, ma dovrebbe essere, personalmente dovrebbe essere un'autorità sanitaria dell'ASL per avere... Per me, io la penso così. Poi hanno fatto la legge, cioè, come si dice, stiamo in democrazia. Sì, è chiaro che se fanno l'autocertificazione, il preside che dovrebbe fare il poliziotto a controllare l'autocertificazione. Altre spettanze, cioè non è che... Ma giustamente, come dice lei Stefano, poi il preside come fa a certificare? Chiama l'ASL, no? E dice: scusi, il bambino tal dei tali risulta vaccinato. Quindi a questo punto, appunto, la produzione del documento dell'ASL tagliava la testa al toro, no? Certo, esatto, quello. Poi la seconda cosa è questo: cioè il discorso di non far frequentare bambini non vaccinati. Secondo me, io ho un figlio grande, l'ho vaccinato, però se mi fossi trovato adesso in questa, io me ne andavo tranquillamente con un costituzionalista in Corte Costituzionale e vincevo. Perché non siamo in una situazione di endemia, di epidemia, per cui diventa un'emergenza e allora devi vaccinare assolutamente. Siamo in una situazione di prevenzione, che io condivido, ma non mi puoi abolire il diritto alla scuola. Per una cosa del genere. No, ma ecco, questo Stefano è il tema e la questione annosa. Comunque, magari ce ne occuperemo su quello che succede a Belluno, ma vi vogliamo lasciare con un sorriso prima di finire la prima ora. Di uno nessuno 100.000, perché Manera non c'è, ma il clown Neronello ci ha mandato una ricerca lavoro alla quale si è sottoposto. Chiama qualcuno e cerca lavoro il clown Neronello. Buongiorno, come posso aiutarla? Buongiorno, io sono un clown, mi chiamo clown Neronello, volevo sapere se posso rivolgermi a voi anche per il mio lavoro. Se c'è qualche offerta di lavoro. Allora, onestamente che io sappia no, però può sempre verificare. Io cerco lavoro come clown a tempo indeterminato, anche presso una famiglia. Ho dubito che ci sia un annuncio di questo genere. Ma perché c'è una discriminazione nei confronti dei clown? No, assolutamente no, guarda. Il mio è un lavoro come tutti gli altri, anch'io ho diritto di lavorare. Certo. Senta, ma lei non ha bambini? Guardi, la devo lasciare in questo momento. Non posso venire a casa sua? non gestiamo questi profili, purtroppo. Ma non possiamo aiutarla. C'è una discriminazione nei confronti dei clown? No, semplicemente le nostre aziende e clienti, noi siamo settore industriale. Ma non potrei come clown lavorare in uno di questi settori? No, diciamo che non, no. Perché magari mentre gli altri fanno il lavoro, diciamo, più serio, io li intrattengo e faccio passare un momento di svago agli altri lavoratori che stanno lavorando normalmente. Non pensa che sia possibile proporre un... Mi informo bene, nel caso dovesse avere un riscontro positivo la ricontatto. Va bene, lei nel frattempo non ha qualche festa alla quale potrei partecipare? I prezzi sono modici. No, guardi. Se lei ha dei figli, dei conoscenti. No, per ora non ho nessuna festa. Vengo a fare un telegramma cantato per suo marito il giorno del compleanno. Non sono sposata. Avrà un amico? Sì. Posso conoscerla, guardi, meglio, no, signora? No, grazie. Possiamo uscire insieme? Le donne non si sono mai lamentate del clown Neronello. Non ci sono mai proposte di lavoro per i clown, che è anche un lavoro che comporta una preparazione, si fa la scuola di circo. Non c'è niente che mi può proporre? No. Qualche suo amico che si sposa o che si separa e vuole festeggiare? Grazie mille, grazie e buona giornata. Neronello, si ricordi questi nomi? Pronto? Pronto, buongiorno, parlo col clown Bertoldo? Sì. Buongiorno, io sono il clown Neronello, sono un clown anch'io. E sì. Telefonavo per sapere se ha eventualmente bisogno di una collaborazione. Anch'io faccio feste per bambini, palloncini, taglio della torta. Ma lei di dov'è? Io sono di Bergamo. E allora è un po' difficile perché io sono di Rieti. Ma possiamo incontrarci a metà strada, fare qualcosa insieme? Sto cercando delle collaborazioni perché vedo che c'è meno lavoro di una volta per i clown. Lo so, che ne so, poi ne parliamo. Perché a volte coi bambini è anche faticoso lavorare, io non ce la faccio più, fare tutte le feste per bambini da solo è diventato pesante, questi bambini maledetti che urlano, gridano, forse in due si fa meglio perché i bambini sono pesanti, faticosi, delle bestie. Tu come ti trovi coi bambini? Io non ne posso più di questi maledetti bambini, sono obbligato a lavorare con loro per vivere. Tu ti trovi ancora bene? No, per carità, mi trovo bene con i bambini. Cani maledetti questi bambini, non bisognerebbe mai farli. E noi siamo obbligati a subirli, questi bambini. Guarda, io non ho problemi con i bambini. Quando capitano i genitori, provi a farti qualche madre. Ma perché? Queste smandrappate. Senti, ma stiamo su scherzi a parte per caso? No, sono il clown Neronello, l'amico dei bambini, mi trovi anche in internet. Telefono per chiederle se ci sono delle offerte di lavoro anche per il settore di cui mi occupo io presso di voi. Sì, lei di che settore si occupa? Io sono un clown, il clown Neronello, l'amico dei bambini. Leonardo Manera? Esatto. Sono una tua fan. Ah, ecco, allora parlo normale. Perché ascolta Radio 24 o perché mi ha riconosciuto così? Esatto. Ascolta Radio 24? Sì. Adesso stavo facendo questo personaggio, volevo capire se ci sono offerte di lavoro per i clown presso di voi oppure no. Purtroppo no. Niente. Però ne abbiamo molto bisogno. Di clown. Nella vita. Sì. Lei comunque ha una bella voce, ci proverei con lei. Lei probabilmente è già sposata, fidanzata. Però in un certo senso occupata. Cosa vuol dire in un certo senso? È un rapporto ormai incrinato. Ma siamo in diretta in qualche trasmissione? No, non siamo in diretta. Quindi non è disponibile un rapporto con un clown. Posso chiedere il motivo di questa chiamata? Sì, stiamo facendo un sondaggio per vedere se nelle agenzie di lavoro interinale ci sono anche delle proposte per i clown oppure no. È una specie di sondaggio per Radio 24. No, le mansioni richieste, cioè i nostri clienti sono principalmente nell'industria. Quindi nel settore spettacolo non c'è nulla? Il settore spettacolo è decisamente marginale per l'attività delle APL. Grazie e complimenti ancora per la voce. Vabbè. Grazie, buona giornata. Andata male, è andata male al clown Neronello e anche a Leonardo Manera, devo dire. Grazie alla nostra ascoltatrice fan e a tutti gli altri che si sono sottoposti a questo. Dai, giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. figuriamoci se il governo si mette contro il Vaticano, dai ragazzi. Milan, guarda il lato positivo del reddito di cittadinanza. Grazie ad esso stiamo scoprendo tantissimi evasori, tantissimi furboni. Leonardo, ma hai ancora la febbre? Ma che figlio di merda c'hai? Adesso ragazzi, cioè, non è che se diventa una colpa anche stare male, però non esageriamo. Vabbè, però cioè, ci sta anche qualsiasi cosa pur di attaccare Leonardo Manera, noi siamo felici, qua. Sarà a casa col suo vestaglione, il suo pigiamone, eh? Dai, facci fare questo salto negli anni 60 al PIL. Signori, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, vogliamo ripartire da un ospite che torna in realtà con noi, è l'avvocato Paolo Gnesutta. Avvocato, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo. Leonardo è a casa con la febbre, che dobbiamo fare? Vabbè, però magari ci ascolta, chi lo sa. Allora, l'avvocato Gnesutta, forse qualcuno ricorda la vicenda di questa società di Tavagnacco in provincia di Udine, dove una impiegata, una responsabile, per errore ha fatto un IBAN da 46.000 euro circa al comune di Napoli. Doveva farlo evidentemente a un fornitore, a un altro cliente. Ha sbagliato, ha messo l'IBAN del comune di Napoli. Caro avvocato Gnesutta, noi non ne veniamo a capo, glielo dico subito. Noi non ne stiamo venendo a capo, anche perché forse fanno comodo questi 46.000 euro. Voi siete riusciti a venirne a capo in qualche modo? No, non solo per il momento non siamo riusciti a venirne a capo, ma visto il silenzio dell'amministrazione non abbiamo potuto far altro che notificare un atto di citazione, quindi abbiamo proceduto giudizialmente nei confronti dell'amministrazione, non abbiamo potuto fare altro, e contestualmente abbiamo anche richiesto alla stessa amministrazione alcuni chiarimenti, alcune informazioni, e che peraltro sono dovute vista la situazione, ma sono dovute perché previste insomma da un decreto legislativo che prevede l'accesso civico, e sostanzialmente siccome no, da parte del comune ci siamo sentiti rispondere che insomma ci sono criticità la dotazione organica che non sarebbe sufficiente, ci sono numerose richieste di rimborso e quindi sì, lo so che questo fa sorridere, perché però lo abbiamo spiegato in realtà. Se io per sbaglio mando un bonifico a Lorenzo Nespoli, come dire, tra due privati dici guarda che hai visto, ti ho fatto un bonifico sbagliato, ci si mette d'accordo se le persone sono civili, ma sono denari che finiscono su conti della pubblica amministrazione, esatto. E quindi è giustissimo. Questi denari sono stati inglobati per pagare, magari a Napoli in quel momento dovevano pagare da 3 anni, non lo so, cito un fornitore, 30.000 euro, hanno detto toh, ma guarda, abbiamo 46.000 euro, pagano subito. Per definizione un bene fungibile si confonde, entra in un gran calderone, mettiamola così, e si confonde, quindi a un certo punto quando entrano sui conti, insomma, non è che c'è modo poi di individuarli o isolarli, finiscono lì insieme a tanti altri. E quindi è logico e giusto che vengano fatte delle verifiche, ma che vengano fatte delle verifiche anche sul effettivo diritto del privato, no, alla restituzione, e ci mancherebbe altro. Ma queste sono state fatte, cioè nessuno a Napoli contesta che ci sia stato questo errore, al comune di Napoli sanno benissimo che è stato fatto un errore e che questi soldi vi devono essere restituiti. Evidentemente ritengono che siano altri ad avere priorità in virtù del, diciamo così, criterio per la cronologia, no? Sì, prima sbaglia prima deve essere risarcito, che può anche essere, io non discuto, però anche su questo mi chiedo, maggiori somme generano maggiori interessi generano maggiori danni per la pubblica amministrazione. No, no, è chiaro, cioè perché voi giustamente quando e se mai vi arriveranno i soldi li chiederete anche con gli interessi. Quando? No, ho detto, no, io dico se mai, perché a questo punto, no, perché la cosa è interessante che anche al Comune di Napoli dicono, ma sì, sì, lo faccio, lo dicono un po' in burocratese, è chiaro che vi restituiremo questi soldi, cioè non c'è dubbio, sono vostri e verranno istituiti. Ecco, c'è un altro tema però, avvocato Gnesutta, che molti quando abbiamo affrontato questa storia ci hanno sottolineato. Ma la banca come mai ha fatto un IBAN, cioè ha fatto un bonifico a un IBAN, diciamo così, che non era corrispondente al nome del cliente, al nome del fornitore? Comanda l'IBAN. Cioè comanda, se uno sbaglia l'IBAN è fottuto, questo esatto, è il concetto. Esatto, evidentemente, o in questo caso, insomma, nella la descrizione del beneficiario non è così rilevante, non è ostativa, non è, come dire, un errore, anche perché molte volte succede, immagini per esempio quando le società sono i beneficiari, che magari possono avere dei nomi puntati, abbreviati, diciamo che se la descrizione... Ma scusi, non c'è un controllo da parte di un funzionario di banca che il nome e cognome della una società sia corrispondente? Poi se c'è un punto, una virgola che cambia, un conto, però se c'è il nome di una azienda e l'IBAN del Comune di Napoli, c'è qualcosa che non va, cioè c'è evidentemente uno scarto clamoroso tra... Non so che dirle, non so come rispondere da questo punto di vista. Cioè, nel senso, voi avete chiesto alla banca come è possibile che abbiate accreditato questo... La risposta che ci è stata data è questa, comanda, cioè, l'IBAN. È comanda l'IBAN, sostanzialmente. Sì. Comanda l'IBAN. Dobbiamo fare. Io tante volte penso a questa dipendente dell'azienda di Travagnacco provincia di Udine, perché... assolutamente, e come avevo già detto, sostanzialmente è una persona che effettua quotidianamente decine e decine di pagamenti, verifica incassi, e quindi come dire, nell'arco di tanti anni può anche capitare che un errore venga commesso. E quindi insomma sono cose che possono capitare. Ciò che non può capitare è dover aspettare mesi, quasi un anno ormai, per la restituzione di denaro. Vede che però, avvocato, arriva un messaggio, io glielo ripeto così come arriva, non è così: sono un bancario, l'IBAN è stato forzato, quindi la banca è colpevole. Benissimo, grazie. Allora ringrazio il vostro ascoltatore, approfondiremo. Voglio dire... Sì, anche qualcun altro dice ci deve essere una motivazione per il passaggio di denaro, in caso contrario si potrebbe configurare addirittura un reato di grave livello, quindi lo sbaglio deve essere rettificato nel corso del trimestre IVA. Deve essere rettificato. Un altro ascoltatore, la banca deve verificare, quindi anche la banca ha sbagliato. Non lo so, io glielo sottopongo. Benissimo, voi voglio dire, avete già problemi. Vabbè, cosa sperate a questo punto? Non c'è maniera, perché maniera le direbbe di rinunciare. No, lui direbbe di rinunciare, sì, di abbandonare ogni speranza. Sì, che la rinuncia fa parte della vita, a un certo punto uno dovrebbe, come dire, ritirarsi. No, assolutamente, mai. No, noi quello che cerchiamo è sicuramente di ottenere la restituzione di capitale, interessi e spese. Quello che a questo punto stiamo cercando di approfondire, anche vista la risposta del comune alle nostre precedenti domande e istanze, è di approfondire e verificare se vi siano dei presupposti anche per azioni dirette e personali nei confronti di dirigenti e funzionari, perché a questo punto delle domande, cioè dobbiamo porci delle domande e dobbiamo avere delle risposte. E in particolare, siccome ci è stato detto che sono numerose le richieste di rimborso, benissimo, quante sono le richieste di rimborso? Sì. Ci è stato detto che la dotazione organica dell'ufficio non è sufficiente, benissimo, quanti sono i dipendenti che compongono quell'ufficio? Sì. Quante pratiche vengono trattate ogni anno, ogni giorno, ogni mese? Facciamo pure una media. Ma quante? Poi io ho capito, ma come mai sono così tante le richieste di rimborso? C'è così tanta gente che sbaglia e dà, dà soldi per sbaglio. Ricordiamo, sì, a volte uno sbaglia la virgola, non mette la virgola ai centesimi e quindi diventa, che ne so, invece di 10 euro e 30 centesimi diventa 1030 euro se uno non mette la virgola. Comunque, salvo errori, proprio ieri, l'altro ieri stavo verificando proprio sul sito del Comune di Napoli. Per andare a cercare se insomma, nei bilanci ci fosse traccia di qualche cosa. Ovviamente non c'è nulla di tutto questo, o almeno io non l'ho trovato, e poi sono incappato in un dato un po', insomma, personalmente che ho ritenuto agghiacciante, cioè riescono a recuperare fra il 10 e il 15% delle sanzioni amministrative che vengono irrogate. A questo punto io capisco, insomma, evidentemente a questo punto lei fa prima rinunciare. Questo vede che alla fine torniamo. No, non lo so, non rinunci ovviamente e ci tenga informati, caro avvocato Gnesutta. Vediamo un po' come va a finire questa vicenda. Intanto noi la ringraziamo, ricordiamo questa dipendente di Tavagnacco in provincia di Udine ha per errore dato 46.000 euro, 46.000, non sono pochi, doveva pagare un fornitore, gli è rimasto perché prima aveva fatto, la vicenda era che prima aveva fatto un IBAN al Comune di Napoli per una multa e poi doveva fare il 46.000 a questo fornitore, gli è rimasto nel computer l'IBAN del Comune di Napoli, quindi da dove nasce questo disguido, e adesso vai a recuperarli questi 46.000 euro. Intanto andiamo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Oh, è pieno di ascoltatori che ci scrivono, anch'io ho sbagliato una volta a fare il bonifico con il nome e la banca ha bloccato. Adesso cioè, si apre il caso della banca che dovrebbe bloccare e invece l'avvocato ha detto di no. Ma alle 10.20, alle 10.21, anzi, eccolo qua il mio scrittore preferito, ecco il nostro coronavirus. Bello, buongiorno. Mauro Corona, il coronavirus. Pare che impazzi anche sul web. Questo è il coronavirus, questo non è... vorrei essere un virus letale davvero. No, va bene, tanto Mauro Corona come va? Allora, a Milano bene. C'è una temperatura di 6 gradi. Immaginavo. Una roba che lo manda in bestia, io che ricordo le temperature. Ma frega l'umanità che non ha lavoro se a Milano... A Erto -3 ad esempio. -3. Ma lo sai che la nostra Elisabetta Fusconi in redazione, tipo quando arriva il mercoledì, studia già il meteo del weekend. La gente vive per il meteo. Ormai si sono fatti male, però uno aspetta il weekend, no? Se è bello fa una cosa, se è brutto sostituisce la gita che doveva fare in montagna con della lettura o vai da uno giusto. È una follia. Giusto. Allora, Mauro Corona, come la vede la situazione? Sta per finire l'ennesima campagna elettorale. Cosa succede adesso? Crolla tutto? Voglio sapere la lettura di Corona. Ma fino a qualche tempo fa avrei puntato su Salvini, che vinceva lui. Sì. Invece non sono più sicuro ora. Comunque vinca Bonaccini o Salvini, cioè la Bergonzoni, non succede niente al governo, ma proprio niente. Non si muovono da lì, cioè come fa il governo a cadere? Dovesse vincere il centrodestra, e perché? Come fa? Perché molti dicono se qualcuno cambia schieramento in Parlamento per cadere il governo dovrebbero ritirarsi loro, il governo stesso, e non lo faranno mai finché stanno lì. Rimane lì, insomma, rimangono lì, ma ovviamente hanno anche intenzione di tentare di fare qualcosa di buono, ma per fare qualcosa di buono ci vogliono idee. Se lei deve inventare una roba nuova, deve avere un'idea. Perché quando sento, io seguo molto anche ieri, sento bisogna creare posti, bisogna creare lavoro. Sì. Ma che tipo di lavoro? Cosa facciamo? Facciamo sedie, facciamo automobili, facciamo scarpe, le stanno già facendo. Solo che sono in crisi con le tasse. Quindi Io per esempio per la montagna inventerei lavori nuovi. Infatti, quali per esempio? Cosa manca esempio, in montagna di ad lavori? Esempio, ad esempio ci sono un sacco di ragazzi disoccupati che non hanno che non hanno nessuna intenzione di chiudersi in una fabbrica a montare viti di occhiali per 8 ore, da pulire tutti i boschi, da pulire tutti i sentieri, da tracciarne di nuovi, da fare nelle valli, invece che lasciarli inselvatichire così, creare dei posti per bambini, dei percorsi, e questi ragazzi lavorano. C'è da dire anche, se mi permette due minuti, sì. Due secondi, che su in una certa località di turismo, di montagna, che voglio mettere no, ma posso anche dirlo, a Misurina, sì. Cercano personale, dei miei amici ristoratori, no, gente con le 15 stelle, gente che lavora, e cercavano della mano d'opera al ristorante, a fare a 1800, va di bene, 1800 euro al mese puliti di vitto alloggio. Netto, netti. Non sono riuscito a trovare un ragazzo o un, perché assumevano anche gente di una certa età. Ma perché? Cioè gente del posto neanche? Perché? Ora il problema del lavoro c'è, ma non in certe zone o in certe occasioni. Perché mi chiedevano, ma è libero sabato e domenica? No, figliolo, no, sabato e domenica c'è, anzi, ristorante, c'è, si lavora al allora doppio, meglio si di no. Anche qui nel mio paese non sono riuscito, gente senza lavoro. Ma com'è possibile? Cioè di cosa vivono? Vivono di ma cosa vivono col papà, con la mamma, si aggrappano a vivono, perché qui c'è ancora un tessuto molto forte, la famiglia, quindi se uno ha bisogno se lo tengono lì. Non è che uno dica i figli adesso sono adulti, andate via. Io me li terrei sempre qui i miei figli, non... però lavorano. Quindi ecco. da una parte c'è il lavoro che manca, perché abbiamo parlato tanto spesso della montagna un po'. Per esempio mi diceva l'altra volta di un'azienda che chiude, infatti io giorni dopo ho letto di questa notizia, insomma, poi quindi... Ma guardi che qui nelle maglie di montagna che ancora esistono non ce n'è mica più uno dei nostri che lavora, sono tutti rumeni o indiani. Perché i nostri, diciamocelo chiaro, non ha mica tanta voglia di sporcarsi ancora le mani come i loro avi. È un po', sono i figli del benessere, insomma, di questa generazione. Con questo non voglio dire che non sia il problema del lavoro in Italia, assolutamente, c'è il problema è come. Però in certe zone dove il lavoro ci sarebbe, la gente non vuol più fare quel tipo di lavoro. Guardi che io quando lavoravo in cava facevo 15 ore al giorno in cava di marmo, fino al sabato pomeriggio, 15 ore al giorno, 15 sono ore. Invece non ci ha raccontato la questione del carcere, l'altra volta ci aveva detto che è stato anche in carcere, Corona. Sì, ma sono robe di quando avevo 20 anni, insomma. Ma vorrei sapere solo il motivo, il motivo degli... L'avevo detto l'altra volta, ma sì. Lei Milan... Sì. ero distratto, cos'è? No, avevamo bevuto, quindi la colpa nostra, ecco. Io e un mio amico... Bevucchiato, però la forza dell'ordine, che non voglio dire se era carabiniero o poliziotto, sì, perché per i quali va tutto il mio rispetto, sì. Guai se non ci fosse, però ci provocò. Insomma, resistenza, ecco, pubblico ufficiale, questo. Sì, una volta il pubblico ufficiale se la cercò, ecco. Perché se tu fai il tuo dovere, dici con pazienza, guarda, te siete messi così, adesso vi prendo. Invece cominciò a provocare, la provocazione va risposta subito. Cioè Corone, uno provoca, e no, allora se mi provochi io scendo. Guardi, nell'agone. Vorrei raccontare un piccolo episodio di oltraggio, anche lì fui portato a Peschiera, ma ero militare, sì. Degli alpini. È un maresciallo maggiore, ero punito, io facevo la guardia ai muli a Tarvisio, andavo allo spaccio un 10 minuti prima dell'orario, perché poi arrivava la massa di ragazzi di alpini e io mi compravo un bottiglione di vino spuma e andavo alle scuderie a fare la guardia. Io ho fatto 40 giorni di guardia fissa, che sarebbe anche proibito dalla legge. Arriva questo maresciallo, che fai qui? Perdonatemi se la tiro lungo. Aspetto che apra, ma lo sai leggere? Sì che so leggere. A che ora apre? 8:30. E allora perché sei qui? Perché le spiega, no, allora perché sei scemo. Non sono scemo. Allora ripetimi, allora non sai leggere, sì che so leggere, allora legga lì, alla fine ho dovuto dire che ero scemo. Quello lì meritava o no una legnata in testa? E che è arrivata? Che è arrivata? La legnata che è arrivata, sì. Va è arrivata e poi finì il processo, ma me la cavai, insomma. Va bene. Allora, mi dicono, chiedi a Corona dove sarà domani sera. È vero, ce lo chiede Stefano via SMS, è vero che sarà a Caneva, Pordenone, sì, a parlare del Caneva libro? Caneva di Sacile, ma una chiacchiera, siccome un libro dovrebbe viaggiare da solo, ma la gente vuole gli autori, in questo caso Righetto e io. Sì. Andiamo lì a parlare del passo del vento. Vabbè, non mi dovrebbe giusto essere. Sì, Corona, Corona vive le presentazioni malissimo. Dice, perché la gente vuole anche l'autore? Ma come? È così, ma si creano questi miti che sono fasulli nel mio caso. Cioè io, anch'io nella mia vita di lettore, avrei avuto un sogno di incontrare García Márquez, ecco perché, perché vedi in questo autore quelle cose belle che ti hanno gratificato, che hai letto. E allora, e la gente vuol vedere Mauro Corona. Sì, ma no, ma perché questo, l'idea del mito, la gente facendo così si diminuisce, perché io non sono superiore a nessuno di quella gente lì, e quindi dovrebbe stare senza di me. Invece no, sa chi vorrei incontrare io una volta? Chi? Fabio Volo Vespa, i miei autori preferiti. Fabio Volo e Bruno Vespa? Sì. No, Fabio Volo è un grande, perdonatemi adesso l'ironia. Fabio Volo è uno che si è fatto da solo, senza aiuti, però fa un libro e vende 1 milione di copie. Trovo una sana invidia. Grande Mauro Corona, grazie per essere stato qui con noi, come sempre disponibile, gentilissimo quando lo chiamiamo Mauro Corona. Poi appunto domani a Caneva, provincia di Pordenone, Il passo del vento è il libro che ha scritto con Matteo Righetto, per incontrarlo, visto che lui dice no, ma non dovrebbero incontrare me, ma leggere il libro, questo sì. Questo almeno lo dice comprare il libro, invece è bello anche incontrare ogni tanto l'autore. Allora, vedi, un ascoltatore dice: Mauro, pur di stringerti la mano, ho acquistato 2 volte il libro. Non Mauro Meazza, che vedo dall'altra parte del vetro, però Mauro Meazza ha anche messo in campo questa idea. Ogni tanto lo incontrate al bar dalle 10.30 alle 10.45, fa delle strette di mano sotto pagamento, stretta di mano, mano farcita si chiamava, no? All'epoca. Sì, avete il libro con Deborah Rosciani, ma tu fai anche le strette di mano proprio a pagamento, cioè ti metti lì come il Papa ai baciamano, ma tu pretendi, come farebbe Manera, din din din din a ogni stretta di mano. Allora, grande Mauro Meazza, arriva anche Eriksen, ormai lo scudetto è proprio già cucito sulle maglie dell'Inter. Ale, bravi, complimenti, borsa. 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Radio 24, Sergio da Salerno. Io una volta ho fatto un bonifico sbagliato, mi è stato ritornato indietro immediatamente. Se non c'è corrispondenza fra IBAN e intestatario del bonifico, la banca in automatico lo scarta e per metterlo sul conto devono forzare l'operazione. Oh ragazzi, ma che vi devo dire? Cioè, ognuno qua giustamente ha una sua idea. Sta di fatto che questa signora, questa dipendente della società di Tavagnacco, ma ne abbiamo parlato, è da una vicenda che va avanti da mesi, ha fatto un bonifico di 46.000 euro sull'IBAN del comune di Napoli, ma mettendo il numero del fornitore a cui dovevano questi soldi, e i soldi sono arrivati e l'avvocato ci ha detto che la banca dice vale l'IBAN, comanda l'IBAN, cioè sbagli l'IBAN, fatti tuoi praticamente. Allora, devo dire che è arrivato un messaggio da Leonardo Manera, perché molti ci dicono, ma scusate, e lo spettacolo di domani al teatro Oscar? Devo vedere come sto. Quindi ha risposto così: non dà certezze, è un uomo che non dà certezze. Mentre io una certezza ce l'ho, è quasi tutto Muriel, finito, signore. Musacchio, Donnarumma in ritardo, ancora. Muriel supera tutti, Muriel a porta libera, 5-0 per la Dea. Ho capito, ma non è che si può, non è che si può vivere sugli allori e rimanere così. Cioè è finito tutto, è quasi finito tutto, la squadra in crisi, non so quante sconfitte consecutive è arrivata. Olbelot, l'Atalanta è allo stremo delle forze, è finito tutto. Mi sto toccando, perché è noto che tu e il tuo amico che ha 37,1 di febbre. Sì, anche secondo me, anche 37,1 di febbre. Guarda che noi a Bergamo andiamo a lavorare anche con 43 di febbre. Il dottor, o il dottor, te firma mia. Beh, il sì. certificato parla, sotto i 43. Parla non per te. Tu, Daniele Belotti, onorevole della Lega, sei infatti adesso? Sono ovviamente, non sono alla Camera perché ecco. C'è attività territoriale importante in vista delle elezioni in Emilia e in Calabria. Sì, sì, sì, e quindi certo. Bisogna stare tra la gente, convincere nuovi fedeli, fare proselitismo sì. al voto. Siete finiti ormai, l'Atalanta, intendo l'Atalanta, siete finiti. No, oh. Guarda, siamo talmente, tu hai parlato prima pubblicità, hai detto... parlavi dello scudetto sulla maglia dell'Inter. Sì, vabbè, questo è Mauro Meazza. Ma tu l'hai vista la nuova maglia dell'Inter? No. L'hanno fatta a zigzag. Mi ricorda la funzione della macchina da cucire, quella a zigzag. Sì. Sono matti. Vabbè, ma lo stai dicendo la tu, lo stai dicendo tu. Ma la verità è che la Nike, che ha un importantissimo studio di marketing, sì. ha valutato che sta crescendo in modo esponenziale la vendita di una maglia che è simile a quella dell'Inter, e quindi i cinesi che vengono a Milano, quelli sì, sani senza sì. l'influenza, senza il coronavirus, comprano, sì. vogliono, chiedono la maglia a quell'altra . E allora devono distinguere quella dell'Inter, allora l'hanno fatta zigzag. Bello, però mi piace che prendi in giro l'Inter, mi piace perché di solito lo faccio io ed è bene che tu tieni su i veri colori nerazzurri, quelli dell'Atalanta. Ho anche una proposta per il Crown Neronello. Per il Crown Neronello, vediamo, attenzione. Sì, io se gli consiglierei, questo sicuramente avrà in me una forte raccomandazione proprio di quello vecchio stile dell'onorevole che raccomanda, sì. un incarico alla Camera. Oh. Durante le pause, le tante pause di lavoro, può esserci un intermezzo del Cloud Neronello, sì, che viene tanto lì. Di colleghi lì ne trova un sacco. Ecco, di pagliacci, l'hai detto il clown Neronello. Va bene. Allora rispondo a chi mi dice c'è da pensare di convertirsi al Monza. L'ho detto varie volte. Io sono di Sesto San Giovanni, io tifo la Pro Sesto, bianco celesti nel cuore siamo Pro Sesto. I campanili suggeriscono il nuovo presidente, ma però, no, Monza. No, noi abbiamo presidente, abbiamo Gabriele Albertini, omonimo dell'ex sindaco nonché fratello di Demetrio Albertini. Questo è il nostro presidente. Chi, il nostro prete? È il prete? No, c'è un altro fratello che è prete. No, Gabriele Albertini non è prete, ma è presidente della gloriosa Pro Sesto, primi nel campionato di Serie D, e quest'anno verremo in Serie C. I vostri vicini di casa sono primi con 15 punti in Serie C. Ma noi non vogliamo bene ai nostri vicini di casa sportivamente parlando. C'è l'Italia dei campanili e quindi io non sono per il Monza. Spero che il Monza perda ogni partita e tengo la Pro Sesto, va bene? Questa è la verità. Io però vorrei fare una domanda seria a Belotti, Olbelot. Ma tu speri ovviamente che vinca la Lega in Emilia Romagna e quindi vai a casa, perché forse cade il governo, il Parlamento, e quindi fuori dalle balle dal Parlamento, oppure a questo punto anche tu sei quello attaccato alla cadrega? No, guarda, io sono già pronto con la valigia in mano, anzi la valigia è già a casa, perché sì, tanto perché siamo tanto sempre a casa, esatto. Noi come ovviamente fai notare sempre tu al venerdì, però la goduria di vedere martedì scene di delirio politico con gente attaccata, ancorata alla poltrona o che cerca nel transatlantico, di passare da altri, in altri partiti, non... Sì. Chiaramente me la voglio godere. È stupenda questa, e te la vuoi godere. Questi tramini dietro gli angoli, nei corridoi, nei divanetti, sono stupendi. Guarda, devo portarti una volta a vederli. No, infatti, una volta mi devi portare in curva a vedere una sconfitta dell'Atalanta. Una volta mi devi. Perché ormai perdete. In curva dell'Atalanta, Alessandro Milan e Leonardo Manera vengono lanciati in campo. Ormai le perdete tutte. Lascia stare che arrivano video di quello che fai tu in curva e sono cose un po' bruttine. Va bene. Al quinto gol dell'Atalanta al Milan. Hai perso la testa. Va bene, Olbelot, il deputato più incredibile della storia della Repubblica Italiana, Daniele Belotti, membro della commissione cultura alla Camera, ricordiamo. Pronostico: dove giocate con l'Atalanta questo weekend? Dove? Domani giochiamo, domani sera a Torino, in col casa Torino, del Toro. Col Torino. Risultato? Ovviamente 0-2. 0-2. Ilicic, e speriamo che possa giocare già il nuovo acquisto che ci farà godere in modo esagerato, che è Csborra. No, dai. Nuovo acquisto dell'Atalanta. No, tedesco. Andiamo. Non è una battuta. Informatevi. Non potresti dire così. Informatevi. Informatevi. Informatevi. Traffico. Adesso te ne mando anche uno di gol eccezionali che ha segnato Csborra nel campionato olandese. Va bene. Traffico. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. 1, nessuno, 100 Milan. Dai Milan, ti rimane sempre il Monza! Ada Velot, me so de Berghe, ma piuttosto devo votare la Lega, ci c'è una scatola di supposte. Ciao, ne. Alino, ti ascolto sempre di notte. Oggi sto male e te sto ascoltando di giorno. Sei bravissimo, siete bravissimi. E per me è la miglior trasmissione di tutta Radio 24. Stupendo. Ciao, bello. Telefonata melassa. Bello l'ascoltatore. Credo che non ci sia bisogno di tradurre tanto il bergamasco conterraneo di Belotti. Attenzione, è arrivata un'autosfida Luchetti. Cioè, Luchetti si fa le sfide e mi ha mandato questo messaggio. Che succede se l'IBAN al quale si effettua un bonifico non corrisponde all'effettivo beneficiario? Risposta: secondo quanto stabilito dalla Corte Europea, i prestatori di servizi di pagamento, banca, poste, del pagatore o del beneficiario, non hanno l'obbligo di verificare se l'IBAN fornito dall'utente corrisponde al beneficiario. Credo che Franco da Roma, che ci ha telefonato, volesse, mi dicono, intervenire proprio su questa sentenza. E quindi, Franco, è corretto? Sì, corretto, è proprio questo che avevo chiamato, proprio per questo. È stata una sentenza, quindi è inutile stare a discutere sulle responsabilità. Qui giustamente l'avvocato della ditta che ha sbagliato, ahimè, non ha citato assolutamente la banca, responsabilità della banca, ma sta cercando di recuperare il suo credito direttamente dal comune di Napoli. Quindi chiariamolo una volta per tutto: forse un tempo non era così, ma adesso c'è stata questa sentenza della Corte Europea a stabilire che chi è nella banca non deve controllare. non deve controllare, come dire, che IBAN e nome e cognome dell'utente corrispondano. Basta, l'abbiamo chiarito. Franco, grazie anche, sfida da Lucchetti vinta. Ecco, recuperare, si parlava di questa cosa e mi è arrivato un vocale del buon Giovanni Savarese, che è qua e che lavora con noi a Radio 24. Allora l'ho visto qui, ho detto, l'ho brancato, vieni in onda, caro Giovanni. Sì, infatti volevo sottolineare che sono stato trascinato qui contro la mia volontà. Ma ovvio, questo sono succede. l'unico errore aver mandato quel messaggino. Quel messaggio. Quindi per sottopormi alle vessazioni a cui i tuoi collaboratori sono abituati, adesso coinvolge anche gli amici. Ecco, però questo messaggio riguardava proprio il comune di Napoli, sì. Cioè che anche voi, adesso non stiamo a dare i dettagli, ma insomma in famiglia avete avuto una vicissitudine. Sì, però i dettagli sono importanti. Perché è napoletano il nostro savarese di origine. Esatto, è molto banale, un albero cadde su una struttura di famiglia al cimitero di Napoli. Il comune disse che non era colpa sua. Cause, anni, soliti, come dire, la trafile burocratica. Abbiamo vinto su tutti i fronti. Il comune ha detto: sì, sì, avete vinto. I soldi, ma ormai 4 anni fa, 5 anni fa, non ne tenete i soldi. Le casse sono vuote, non tenete i soldi. Quindi potrebbero pagarvi quei 46.000 euro che sono arrivati. Esatto, anche per la cifra è sicuramente inferiore. Io sono stato stimolato proprio da quel racconto in onda, perché sarebbe capiente quella cifra, quindi sì, diciamo che evidentemente al comune di Napoli sperano che qualcuno faccia degli errori e dia dei soldi con i quali coprono dei debiti precedenti. Oppure, quindi, esatto, che i debitori si dimentichino. Infatti noi paghiamo un avvocato per fare una telefonata ogni tot mesi per dire: ma ce l'avete i soldi? Ancora non avete nemmeno i soldi. Dovete mettervi in lista. Esatto. E vabbè ragazzi, è abbastanza clamoroso. Certo, abbiamo almeno capito i dettagli, e cioè il fatto che la banca non c'entra niente, che al comune di Napoli sono arrivati questi 46.000 euro e loro lo riconoscono. Quindi tengono i soldi. Sì, no, una volta che arrivano però li usano per pagare i debiti che hanno, non è che sono come una famiglia che tiene lì i soldini, ma li usano per pagare altre cose. Ammettono di dover restituire non solo a voi, ma poca cosa, ma anche questi 46.000 euro, e che prima o poi... Non lo so, San Gennaro... Da napoletano mi auguro che questa cosa venga risolta invece in maniera efficiente, rapida, e come dire, che smonti tutti i luoghi comuni che sulla mia città resistono. Però, e queste vicende aiutano un po'. Caro Giovanni, devo dire una cosa: sì, finalmente sentiamo la voce di Savarese. Ci arriva un messaggio di un'ascoltatrice. Qua, secondo me, si riferisce, come dire, alle ulteriori vessazioni che Manera ha messo in campo quando scrivevamo il Falco e Gabbiano. Questo, Savarese. Questo forse è vero, colpa di Savarese. È vero. Quando l'unico scrivevi, ambito di notorietà. Parole molto, molto lunghe. Ma io scrivo così. Molto lunghe, e effettivamente sì, finalmente sentiamo la voce di Savarese. Quindi Savarese, adesso di qualcos'altro. Ma poesia a memoria non me ne vengono, che ti devo dire? No, fai un saluto a questa ascoltatrice. Come si chiama l'ascoltatrice? Non lo so, non si è firmata. Vabbè, ascoltatrice, posso fare anche una voce più profonda, più interessante, potrei anche provare, però insomma non è il mio lavoro, io faccio il giornalista. Va bene, è il buon Giovanni Savarese. Facci sapere come va con questa vicenda di Napoli. Da quant'è che è in ballo? Ma credo siamo quasi alla decina di anni, cioè abbiamo quasi fatto cifra tonda. Potete festeggiare, sì. Ecco. Questa è una musica di speranza. Ah no, ecco, è solo mio. Però vai, i luoghi comuni, cliché. Esatto. Già c'è Crociani. Il rapper napoletano. Già c'è Crociani, che è tanto amato a Napoli. Soffro quando ascolto il buon Giuseppe. Versione Pavarotti, peraltro. Il cui napoletano lasciamo un po' a desiderare, però grande artista. Vabbè, però nel ringraziare Giovanni Savarese, nel dirvi che chissà se domani c'è lo spettacolo di Leonardo Manera al Teatro Oscar, perché dipende dalla febbre, l'abbiamo chiamato, gli abbiamo scritto e ha detto non lo so. Ricordo che l'aveva annunciata nei giorni scorsi la sua febbre, quindi io una visita fiscale gliela manderei. Secondo l'onorevole Belotti a 37.1, come gli uomini che si lamentano per 2 lire di febbre. Che dobbiamo dire? Ci ritroviamo lunedì, anch'io come senti sono un po' conciato. Potete scriverci 100.000@radio24.it, soprattutto se avete qualche contenzioso col comune di Napoli o con altri comuni, scriveteci e ci sentiamo lunedì. Quelle stelle sono vere, almeno qui non ci sparerà nessuno. E Carnevale si sta sbellicando, e io che lo sfanculo e poi mi aggiungo che è venerdì. casa sarà il minore dei mali. È venerdì, non si rompete i coglioni. Qualunque cosa, mia bella sposa, il venerdì resta fuori. Che è venerdì. Nessuno, nessuno, 100.000.